Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sarro Giambonino, una nuova poesia di Luca Sarro Giambonino dal titolo Il vento dell'est. E finalmente arrivò il vento, un fresco vento dell'est che soffiava e soffiava e soffiava, e per tutta la mattina fu così. Muoversi era bello assai, e i capelli seguivano le folate, e le folate non cessavano mai. Eolo mandò uno dei suoi figli a portar freschezza laddove prima solo d'afa una cappa s'era formata. Ringrazio il cielo per queste ore di gioia e attendo impaziente i temporali a venire.